Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma benvenuti e buongiorno. In regia la parte tecnica oggi abbiamo Peter Bescapè e Laura Vanossi ci aspetta in redazione. Sono come sempre pronti i titoli del nostro sommario, andiamo a sentirli. Tiroide, una ghiandola importante. Cerchiamo di non farla ammalare. Puntiamo sulla prevenzione. Sei stressato? Fai un bel respiro. Ti aiuta. SLA, una questione di pulizia cellulare. La ricerca è al lavoro. La ginnastica sui tacchi a spillo. Tiroide, oggi è lei la protagonista della nostra puntata, una ghiandola piccola, graziosa, assomiglia un po' a una farfalla e fondamentale. Ha un ruolo importante nel metabolismo corporeo, tanto che molto spesso quando non riusciamo a perdere peso diamo colpa a lei. Parleremo anche di questo, ma ci arriveremo per altre strade. Insomma, l'idea che vi propongo oggi è questa. Dato che la tiroide, per svolgere bene i compiti che madre natura le ha assegnato, deve stare bene, un po' come succede anche noi, che diamo il meglio quando siamo in forma, oggi cerchiamo di capire come preservare la salute di questa ghiandola e lo faremo imparando a conoscere le situazioni, le condizioni che l'aiutano e naturalmente quelle che invece possono metterle in difficoltà. La domanda quindi è questa: cosa devo fare per evitare che la mia tiroide si ammali, lavori troppo, troppo poco e si infiammi? Una domanda che gireremo a diversi esperti in studio. Con me ne ho già subito il primo, che ci accompagnerà per tutta la durata della nostra trasmissione. Tornate a trovarci, il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, il professor Pontecorvi è pronto già a rispondere a tutte le vostre domande, a darvi indicazioni, suggerimenti. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024. Come sempre potete anche mandarci un messaggio al 349 238 6666 e mi allarmo anche un'email a esserebenessere@radio24.it. Professore, allora, lei oggi ci deve aiutare a scovare i nemici della nostra tiroide, ma deve anche presentarci i suoi amici, così noi li teniamo da conto. Allora, iniziamo dai nemici? Sì, più che dai nemici io inizierei dalla mancanza di un amico, perché la causa più frequente di malfunzionamenti della tiroide è rappresentata dalla carenza di un elemento che è indispensabile per la formazione degli ormoni tiroidei. Questo elemento è lo iodio. Lo iodio è molto poco rappresentato nel terreno, soprattutto in Italia, dove la maggior parte delle zone sono di origine vulcanica. Lo iodio è un elemento che è apparso sulla Terra molto tardi, durante la formazione della Terra. Quindi si ritrova negli strati più superficiali ed è stato un po' lavato via dalle piogge. Per questo si ritrova più nel mare che sulla Terra. Quindi parleremo di iodio, della carenza di iodio, parleremo anche di sale iodato, perché è consigliato. È consigliato sicuramente a tutta la popolazione, soprattutto partendo dall'età infantile, perché è sicuramente il modo migliore per prevenire, come diceva lei, le malattie della tiroide. Professor Pontecorvi, allora abbiamo iniziato dalla mancanza di un amico, ci sono però invece dei nemici della nostra tiroide, nemici, tra virgolette, nemici. Ad esempio, noi sappiamo che l'essere donna ci espone ad un rischio maggiore di ammalarci, di tiroide. Naturalmente essere donna è una bellissima cosa, siamo disposte a sostenere questo rischio, soprattutto perché siamo informate. Professor Pontecorvi. Sì, il sesso femminile lo possiamo considerare un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie della tiroide. Gli antichi egiziani usavano fare diagnosi di gravidanza legando un filo di erba molto stretto intorno al collo, e quando crescendo il volume della tiroide, quindi il volume del collo, si rompeva questo filo d'erba, si faceva la diagnosi di gravidanza. Astuti questi egiziani. Così c'è scritto sui libri di storia della medicina. Tra l'altro, professor Pontecorvi, lei domani immagino che lavorerà, magari non avrà occasione di sentirmi, ma noi domani parliamo proprio di gravidanza. Anzi, 9 mesi che ci cambiano la vita, con delle mamme, con degli esperti. Ma tornando a noi, quindi essere donna ci espone ad un rischio maggiore, anche l'età, in alcuni periodi della, l'età passa, più il rischio aumenta, sì, soprattutto menopausa. Sempre giusto? Nel sesso femminile, dopo la menopausa, la prevalenza delle malattie della tiroide quasi raddoppia. Quindi sesso femminile e avanzamento dell'età rappresentano due fattori fisiologici che però predispongono a subire delle alterazioni della funzione o della struttura della tiroide. Poi altri nemici sono ben noti, le radiazioni. Certo. Le incidenti nucleari, le bombe atomiche di Nagasaki e Hiroshima e soprattutto i fallout radioattivi nel corso degli anni 50 e 60 sugli atolli del Pacifico e ancora di più recente Chernobyl. L'episodio di Chernobyl del 1986 ci hanno chiaramente dimostrato che le radiazioni ionizzanti rappresentano un importante fattore cui la tiroide è molto sensibile, ed è soprattutto sensibile la tiroide dei bambini. Più si è giovani, più si è sensibile all'effetto inducente tumori di queste radiazioni. Quindi parleremo naturalmente anche dell'influenza dell'ambiente sulla salute della nostra tiroide, radiazioni ionizzanti, anche lo stile di vita. Nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e forse sbagliamo qualcosa o lo dimentichiamo e quindi esponiamo la tiroide a magari lavorare troppo poco e infiammarsi. Professore. Sì, più che lo stile di vita direi alcune modalità che vengono indotte spesso dai giornali femminili, l'utilizzo di certe sostanze per esempio a scopo dimagrante oppure con sostanze anticellulite contengono spesso dei composti che possono avere effetti nocivi sulla tiroide. Alcuni per esempio contengono iodio ma lo contengono in quantità eccessiva, alcuni preparati per dimagrire contengono ormoni tiroidei in quantità eccessive. Quindi un invito alle nostre ascoltatrici se state facendo uso di questi prodotti, e quindi dagli integratori ai prodotti dimagranti ad alcuni cosmetici, creme per la cellulite ad esempio, chiamateci 824 0024. Ma professor Pontecorvi, anche dei farmaci, ci sono farmaci che possono mandare in tilt la tiroide? Sì, i farmaci, molti farmaci hanno azioni benefiche sulla malattia per cui li si usa, ma possono avere effetti collaterali. Alcuni farmaci, per esempio, utilizzati nella terapia delle aritmie cardiache, questi uno dei più usati, ha sicuramente degli effetti, a volte possono essere anche drammatici sulla funzione tiroidea, quindi bisogna stare attenti nell'usarli. È stata fatta recentemente un'indagine in diverse scuole di medicina statunitensi e inglesi, si è visto che il medico che si laurea conosce tutto delle malattie, ma conosce la cosa che conosce di meno sono proprio gli effetti avversi dei farmaci e le interazioni tra farmaci, cioè gli effetti avversi che possono crearsi quando si usano due o tre farmaci, come spesso ormai succede, soprattutto nella nostra popolazione anziana che è affetta da polipatologie. 824 0024, un numero che vi dà l'opportunità di parlare con i nostri esperti. Tanti gli aspetti che toccheremo oggi, parleremo appunto di prevenzione, abbiamo detto parleremo di iodio, di radiazioni ionizzanti, quindi dell'influenza dell'ambiente, ma anche di alcune nostre abitudini, che sono quelle magari di utilizzare dei prodotti dimagranti a base di particolari sostanze o usare cosmetici. Allora chiamateci 824 0024 o scriveteci al 349 238 6666. Una mela al giorno. E finalmente lo yoga entra in ospedale, lo fa proprio passando dalla porta principale con un progetto ambizioso, curare ansia e depressione. Il tutto tra l'altro viene rigorosamente documentato e scientificamente valutato. Succede a Milano, ma l'esperimento si estenderà anche in altre città. Ne parliamo oggi col professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professor Mencacci, come è nato questo progetto che è più innovativo di quanto si possa pensare? Beh, è nato dalla curiosità di andare a valutare quelle che sono tecniche millenarie per andare a verificarne sia i risultati e poterne valutare anche soprattutto da un punto di vista scientifico gli esiti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato un gruppo di persone affette da disturbi d'ansia e di depressione certificati che non assumessero farmaci e li abbiamo inseriti, li abbiamo chiesto di partecipare a questo gruppo molto intensivo che applica delle tecniche yoga e di meditazione. Al contempo tutto questo gruppo di persone viene valutato con una serie di accertamenti, vuoi ematochimici, vuoi strumentali, vuoi di test psicologici, per poterne andare a verificare nel tempo le modificazioni, i cambiamenti e soprattutto i risultati. Professor Mencacci, quindi sono sottoposte a delle sedute abbastanza intense ravvicinate, ma poi queste persone impareranno da sole queste tecniche, quindi potranno poi svolgerle a casa. Proprio così. L'impegno è un impegno molto forte, perché viene richiesto, ovviamente le persone che partecipano, anche una loro personale spinta al cambiamento, cioè viene chiesta una loro partecipazione attiva, e consiste in 10 giorni molto intensive, dalle 3 alle 4 ore al giorno, seguiti da un periodo di 8 giorni in cui questi esercizi acquisiti di yoga, e uno yoga, una particolare tecnica che viene chiamata Sky, e di meditazione, vengono fatte dalle persone a domicilio, e poi riprendono una volta ogni 15 giorni per 6 mesi ad essere guidati dal trainer. E qui la cosa importante è che c'è sempre presente nel gruppo una psichiatra donna e un trainer di yoga che accompagna e valutano nel tempo questo gruppo. Professor Mencacci, al momento qual è la risposta dei pazienti? Cosa dicono? La risposta di questo primo gruppo è una risposta particolarmente positiva. Consideriamo e vogliamo avere un atteggiamento scientifico, quindi andremo a vedere i loro esami ematochimici, il loro rapporto tra respiro, battiti cardiaci e quant'altro. I loro commenti, dal punto di vista soggettivo, alla prima valutazione dopo il training intensivo, sono molto positivi. Hanno acquisito e si sentono partecipi di acquisire una possibilità, e questo è il nostro desiderio, di vedere se daranno gli esiti giusti, che attraverso il respiro si riesca ad agire, e questo scientificamente, sul nervo vago. È un nervo che è uno dei nervi più importanti, di maggiore comunicazione con il nostro cervello, e questa tecnica dice di poter agire attraverso il respiro sul nervo vago. Beh, noi lo andremo a vedere. Professor Mencacci, noi aspettiamo i risultati. Intanto complimenti e buon lavoro. Grazie e a presto. Buona giornata. Pronto soccorso. Torniamo a parlare di questa piccola e graziosa ghiandola così importante per la nostra salute. Parliamo della tiroide. Cerchiamo di non farla malare, perché se ne abbiamo cura magari dobbiamo cercare, imparare ad evitare delle condizioni o magari delle abitudini che in qualche modo possono danneggiarla. Abbiamo subito in linea con noi Alberto, ci chiama da Milano, 824 0024. Alberto, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. La mia domanda riguarda mia madre, che ha 71 anni e assume un farmaco per stimolare la tiroide. Allora, ha un TSH. Mi scusi Alberto, quando sì. Lei parla di un farmaco per stimolare la tiroide, intende sì. L'integrazione che viene data dell'ormone tiroideo? Diciamo che allora mia madre aveva una tiroide cosiddetta addormentata. Sì. Mi scuso se non uso dei termini. No, ma neanche io. No, ma noi non dobbiamo usare i termini corretti, perché ci facciamo capire, usiamo perfetto. I termini di tutti i giorni. Benissimo, perché noi parliamo grazie. Così, Alberto. Allora, quindi sostanzialmente ha un TSH, dopo un certo periodo di tempo in cui durante il quale ho usato questo farmaco, un TSH pressoché nullo e un T4 anche troppo alto. Sì. Ora, nel tempo ciò ha provocato anche problemi cardiaci, perché mia madre ha una sorta di fibrillazione cardiaca. Francamente sono un po' preoccupato, perché allora Alberto, vediamo se la sua è una preoccupazione fondata oppure no. Professor Pontecorvi, il farmaco di cui parla Alberto in realtà che cos'è? Probabilmente ormone tiroideo, cioè tiroxina. Sì. E la preoccupazione è fondatissima, non fondata. La mamma di Alberto probabilmente assume troppo ormone tiroideo. Ecco il motivo di quel TSH basso e di quella T4, cioè proprio la tiroxina più alta. Sì. È stato dimostrato che circa il 30% delle terapie sostitutive ormonali, cioè le terapie che si fanno nei casi di tiroide addormentata, cioè quando c'è un ipotiroidismo, sì. sono fatte in eccesso. E il 50% di questo 30% in eccesso è troppo in eccesso. Quando un TSH scende al di sotto del valore di 0,1, indica che di ormoni tiroidei in circolo ce ne sono troppi, e questo è dannoso soprattutto per il cuore nelle persone anziane, perché può far venire, scatenare la fibrillazione atriale, che è esattamente la patologia che ci riferiva. Come fate per bilanciare le cose? Per bisogna un riassetto. Sapientemente dosare la quantità di ormone, si fa un calcolo in base al peso corporeo o alla superficie corporea del paziente e si monitora poi successivamente i livelli di ormoni tiroidei e soprattutto del TSH. Quindi è un aspetto da segnalare al medico, ma che si può riaggiustare in qualche modo. Questo è il consiglio per Alberto. Andiamo invece a Varese, ci chiama Elena. Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo perché vorrei un'informazione, ma il sale marino integrale può avere la stessa valenza del sale raffinato a cui è stato aggiunto poi in un secondo momento lo iodio? Sì, quindi se c'è differenza tra il marino... Ottima domanda, assolutamente no. Il sale marino addirittura contiene meno iodio del sale da salgemma, perché lo iodio evapora con il calore e il sale marino in genere viene prodotto nelle saline all'aperto, dove l'acqua del mare viene raccolta e viene fatta evaporare con il sole e rimane poi il sale. Questo sale contiene pochissimo iodio. Il sale invece fortificato con iodio, cui è stato aggiunto in un secondo tempo iodio, è quello che deve essere utilizzato. E oggi per legge è obbligatorio esporlo in tutti i supermercati, in nelle tutte le tabaccherie e nelle mense aziendali. Professor Pontecorvi, volevo approfittare della domanda di Elena per tornare a questo. Lei ha detto il primo nemico è la mancanza di un amico. Iodio, quindi sale iodato, viene utilizzato per prevenire eventuali carenze. È una raccomandazione che possiamo fare a tutti o ci sono delle indicazioni in cui questa raccomandazione non va seguita? Perché le chiedo questo? Perché ho avuto il mio suggerimento, i miei ascoltatori mi suggeriscono al 349-238-6666 e io rischio anche di fare delle domande intelligenti. Un'ascoltatrice, Daniela, mi scrive: prende Utirox 0,25, funziona poco, il dottore mi ha detto di non assumere iodio, è corretto? Quindi un'integrazione, che le persone che, come la mamma di Alberto, fanno ricorso a questa integrazione, perché non è un farmaco, è un'integrazione di quello che la tiroide non riesce a produrre, devono anche prendere sale iodato, con la raccomandazione comunque di usarne poco, perché anche se iodato va usato poco, perché sennò sale la pressione. Professore. Sì, questo ultimo dato è importante. Parliamo di sale, sembra che uno suggerisca di mangiare il sale, no? A cucchiaiate. Poco sale ma iodato era lo slogan di alcuni anni fa, quando propagandavamo nelle televisioni il consumo del sale iodato. La domanda della radioascoltatrice, bisogna vedere il motivo per cui prende quella dose di tiroxina, peraltro molto bassa. La tiroxina contiene iodio. La tiroxina è la T4, 4 sta per 4 atomi di iodio, ogni molecola di tiroxina ha 4 atomi di iodio, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro iodio. Ma è ovvio che se nella famiglia si sta usando sale iodato, male non fa la signora Daniela ad assumere anche il sale iodato. Quindi non si rischia anche per... Senta professore, lo iodio si trova anche negli alimenti, c'è una dieta, dato che vogliamo capire i nemici ma anche gli amici? Allora, c'è una dieta che piace in modo particolare alla nostra tiroide? Sì, i giapponesi sono noti per avere meno problemi della tiroide simili ai nostri, perché in Italia abbiamo detto c'è una carenza di iodio di grado lieve o di grado medio. Sì. E questo un po' dappertutto, addirittura anche in Sicilia, nonostante noi siamo circondati dal mare. Sì. E l'altra possibilità è quella dei giapponesi, loro fanno molto uso di alghe e di pesci che contengono grande quantità di iodio. Sicuramente una dieta ricca di pesce fa bene al colesterolo, fa bene anche alla tiroide. Ci sono però anche per contrario degli alimenti che bisognerebbe evitare di consumare in eccesso, diciamo così. In eccesso. Possiamo anticiparne perché abbiamo i mercati? Uno di questi è la soia, ne parleremo dopo. Siamo tornati insieme, oggi cerchiamo di imparare a prenderci cura della nostra tiroide, cosa fare per evitare di farla malare. Ma intanto che voi ci chiamate all'824 0024, io ne approfitto per parlarvi di un nuovo passo avanti della ricerca, che da anni lavora instancabilmente in mezzo a tantissime difficoltà per trovare i meccanismi che sono alla base di molte malattie. Oggi parliamo della SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia grave, neurodegenerativa, le cui cause non sono, sono ancora in parte sconosciute. Bene, uno studio finanziato da Teleton ha scoperto che alla base di questa malattia potrebbe esserci, ve la racconto così, ma abbiamo il nostro esperto che sarà più preciso, ma intanto per intenderci, un difetto di pulizia della cellula. Ne parliamo con la dottoressa Caterina Bendotti dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che insieme a Silvia De Biasi dell'Università degli Studi di Milano ha condotto la ricerca e ha pubblicato i risultati su una prestigiosa rivista scientifica. Dottoressa Bendotti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottoressa Bendotti, io ho tradotto quello che ho letto dallo studio e ho parlato di una sorta di pulizia della cellula che non viene fatta a dovere, per trovare un paragone. Sicuramente lei riesce a spiegarci questo concetto che è strappato così, un po' così, ma in modo più scientifico. Che cosa avete scoperto? Benissimo, allora in questo studio parte da un'osservazione molto importante, che le cellule, i motoneuroni, che sono quelli che muoiono nella SLA, in realtà sono pieni di una serie di proteine anomale, di aggregati, cioè di masse che sono praticamente dei rifiuti tossici della cellula. Sì. E da questa osservazione abbiamo pensato che probabilmente il sistema di spazzini che tutte le cellule hanno, perché servono proprio per mantenerle pulite e mantenerle efficaci, attive, non funzionasse molto bene. Per cui circa 5 anni fa, proprio insieme alla dottoressa De Biasi dell'Università di Milano e anche insieme al dottor Angelo Poletti dell'Università di Milano, che si occupa soprattutto degli studi delle cellule, sì, abbiamo intrapreso questo progetto, cioè quello di capire se gli spazzini della cellula funzionano bene o no. E che cosa abbiamo fatto per questo? Innanzitutto abbiamo fatto uno studio sulle cellule cresciute, le cellule isolate cresciute in provetta, utilizzando come diciamo meccanismo per vedere che se queste cellule funzionavano bene, proprio delle proteine anomale che si accumulavano, e siamo andati a vedere se attivando e alterando questi spazzini si riusciva effettivamente a pulirle, e abbiamo ottenuto dei risultati positivi che sono stati pubblicati nel 2007. Ma la sfida maggiore era quello di provare questo in modelli in vivo, cioè nei topolini che noi utilizziamo proprio come modello della SLA, perché volevamo capire se questo meccanismo era specifico per i motoneuroni, cioè per le cellule che vengono, muoiono. Certo. Esatto. E come è andata? E è andata bene, cioè abbiamo utilizzato in questo caso uno strumento che peraltro è valso il premio Nobel nel 2008, che di Hashimomura, insomma una serie di ricercatori, che era l'utilizzo di una proteina fluorescente attaccato ad un sistema che potesse monitorare, cioè che potesse determinare l'efficacia di questi spazzini, ed in particolare di uno spazzino che è molto importante nella cellula, che si chiama proteasoma. Sì. È una parola molto difficile. Però l'idea dello spazzino, l'idea della pulizia, anche noi che non siamo addetti ai lavori, ci ha portato un po' a capire che cosa state facendo e a quali risultati siete arrivati. Dottoressa Bendotti, per adesso siete sui topolini. La SLA, esatto, è una malattia di cui si è parlato molto, specie di recente, pur essendo una malattia rara, ci sono tante ipotesi, la ricerca continua, aprirà sicuramente nuove strade? Sì, sicuramente da questo potremmo adesso, visto che abbiamo ottenuto questo risultato che non funziona bene lo spazzino, cercheremo di stimolare lo spazzino, di attivarlo in modo tale che sia più efficace. Speriamo che questo spazzino funzioni, esatto. Professoressa Bendotti, tra l'altro, ecco, io sono contenta di portare in trasmissione i risultati di questi studi, per sottolineare che la ricerca italiana funziona di altissimo livello, per aumentare in tutti noi la speranza nella ricerca e per sottolineare che senza fondi la ricerca non può andare avanti, è come un po' una macchina senza motore. Eppure, professoressa Bendotti, continuate così in mezzo a mille difficoltà con la tenacia che vi caratterizza, i risultati si stanno ottenendo. Grazie molte per il vostro lavoro. Ringrazio lei e gli ascoltatori. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professor Pontecorvi, mi commuove sempre quando si incontrano queste storie di persone che dedicano la vita alla ricerca pur con tanti fallimenti, difficoltà, eccetera. Ma torniamo alla nostra bella tiroide. Abbiamo detto qualche alimento va non consumato in eccesso. Lei ha citato la soia. E poi andiamo subito a questi cosmetici, le creme anticellulite, perché c'è molto interesse da parte delle nostre ascoltatrici. Allora, la soia poca? No, la soia nelle quantità alimentari, nella quantità giuste. L'eccesso di qualsiasi cosa fa male, inclusa la soia. È stato dimostrato che la soia può interferire con l'assorbimento della tiroxina, quindi soprattutto in soggetti che fanno uso della tiroxina come terapia ormonale. Mi penso soprattutto per esempio ai neonati che hanno un ipotiroidismo congenito, cioè hanno una tiroide che non funziona fin dalla nascita, sì, e hanno bisogno quindi di apportare questo ormone dall'esterno, e che spesso possono avere anche allergie alimentari, intolleranza al lattosio, quindi vengono nutriti con latte di soia, e quindi tutto in genere qui c'è bisogno di dosi di tiroxina superiori, proprio perché la soia ne fa assorbire di meno, ma nelle quantità giuste in una persona adulta non dà problemi, ecco. Ecco, e quindi anche non bisogna esagerare, anche il consiglio vale per le persone che usano questa integrazione di ormoni per la tiroide, soia non senza esagerazioni. E volevo chiederle invece una risposta per il nostro ascoltatore che dice: uso la lecitina di soia per il colesterolo, rischio? No. È la stessa cosa, va benissimo per ridurre i livelli di colesterolo, non bisogna abusarne. Stiamo direi a Milano, ci aspetta Maria Teresa che ci ha chiamato all'824 0024. Maria Teresa, si sta preparando? Sì, sono pronta. Ecco, allora è arrivato il suo momento, che cosa ci racconta o vuole chiedere al professor Pontecorvi? Volevo chiedere un consiglio al professore. Sì. Allora, io tempo fa mi hanno riscontrato una tiroide dove lavorava molto e hanno cominciato a vedere questo perché avevo un occhio un po' differente dall'altro. Sì. Che a questo punto hanno fatto gli esami e hanno riscontrato la tiroide. Io adesso sto facendo delle cure, sto prendendo il Tapazole. Come sta? Mi perdoni? Maria Teresa, lei come sta adesso che sta facendo la cura? Allora, fisicamente bene. Non mi sento alcun problema, però il problema è gli occhi, che ho a questo punto sempre un occhio gonfio e mi lacrimano. Allora, Maria Teresa, professor Pontecorvi, perché questa lacrimazione all'occhio? Diciamo, usciamo dalla puntata. Si tratta di un ipertiroidismo su base autoimmune che si chiama malattia di Graves-Basedow, dopo molto probabilmente. Sì. Colpisce sia la tiroide facendola funzionare di più e dando appunto l'ipertiroidismo, e colpisce anche gli occhi. Sì. Colpisce in particolare il tessuto che sta dietro l'occhio e determina un'infiammazione di questo tessuto retroorbitario che fa protrudere l'occhio in fuori dal cosiddetto esoftalmo e dà anche infiammazioni dei muscoli e dei tessuti che sono intorno all'occhio, provocando congiuntiviti, lacrimazioni e nei casi più gravi difetti di motilità dell'occhio fino alla compressione del nervo ottico. Quindi deve la signora sicuramente consultare un medico, un endocrinologo in particolare, esperto di questo problema. E in Lombardia ce ne sono tanti. Allora, professor Pontecorvi, vogliamo aprire una breve parentesi prima di andare alle radiazioni ionizzanti sui cosmetici, prodotti dimagranti a base di alcune sostanze in particolare? Sì, un po' di allarme. Qui possiamo dire che la tiroide da nostra amica diventa nostra nemica, perché impropriamente in molti cocktail dimagranti, come li definisco io, vengono introdotti gli ormoni tiroidei. Ora, l'ormone tiroideo... Ma cosa leggiamo noi negli ingredienti? C'è scritto ormone tiroideo? Ci sono delle sigle? Spesso c'è una sigla, TRIAC si chiama, sarebbe l'acido triiodotiroacetico. Così impariamo a individuarli e andiamo a leggerli. Potrebbe esserci scritto TRIAC oppure tiroxina. Oppure tiroxina. Sono gli ormoni tiroidei. Il TRIAC è un derivato degli ormoni tiroidei, peraltro molto potente, anche più potente della tiroxina. E vengono usati impropriamente per dimagrire, perché stimolano, è vero, il metabolismo, ma provocano soprattutto una perdita di massa magra e non di massa grassa. E questo va evitato quando si deve dimagrire. Non non si dimagrisce solo per motivi estetici, si dimagrisce per ridurre il rischio cardiovascolare, il rischio oncologico, certo, che sappiamo essere legato al sovrappeso e all'obesità. Bisogna perdere la massa grassa e questo quindi, gli ormoni assumere... tiroidei lo fanno anche, ma lo fanno meno efficientemente. Si perde soprattutto muscolo. Ecco, quindi attenzione se usate prodotti dimagranti, leggetene gli ingredienti e che cosa contengono. Tiroxina e triac sono le due paroline che dobbiamo andare a ricercare. Invece se li troviamo nei cosmetici, ad esempio alcune creme per le smagliature, creme li contengono alcune creme. Se io ho già problemi alla tiroide uso questi, che cosa succede? Oppure possono sia i prodotti che magari un'assunzione impropria di questi ingredienti, provocarmi dei problemi? Ma sono sul foglietto illustrativo c'è scritto che sono controindicati, ovviamente, in chi ha problemi di tiroide. In realtà non fanno niente. La tiroxina viene che è contenuta in queste creme anticellulite, viene assorbita davvero molto poco. La cute ci difende anche dalla tiroxina portata impropriamente, perché contiene degli enzimi che la scindono, la distruggono, la inattivano, e quindi come ce la spalmiamo viene inattivata e molto poco funziona contro la cellulite. La pelle intelligente. Sì. Dottoressa Pellegriti, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno a lei e al professor Pontecorvi. Che è qua, bello, tranquillo, con le cuffie e sta rispondendo all'824-0024 alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. La dottoressa Pellegriti è dirigente medico della divisione di endocrinologia all'ospedale Garibaldi, Università di Catania. Dottoressa, l'aspettavamo perché tra i fattori che possono in qualche modo interferire sulla salute del nostro organismo abbiamo parlato anche di radiazioni ionizzanti e abbiamo citato, il professor Pontecorvi ha citato Hiroshima, ha citato Chernobyl, che hanno avuto come conseguenza un aumento delle neoplasie tiroidee proprio per l'esposizione a radiazioni ionizzanti. Allora, dottoressa, Chernobyl è lontana sia dal punto di vista geografico che da quello temporale, ma questo è vero solo in parte, perché ci sono casi che si sono manifestati anche a distanza di anni. Per quanto riguarda poi la distanza, è tutto relativo, no? Diciamo che non è esattamente così. L'incidente nucleare è vero, è molto lontano, è avvenuto nell'aprile dell'86, quindi oltre 20 anni fa. Sì. E quello che è successo è che il radionuclide più presente nella nube, cioè lo iodio 131, provocò poi un aumento davvero considerevole, significativo di tumori tiroidei, soprattutto nei bambini. Pensi che oltre 4.000 bambini nelle regioni della Bielorussia, dell'Ucraina, della Russia si ammalarono di carcinoma della tiroide, quindi soprattutto i bambini che al momento dell'esposizione avevano un'età inferiore ai 2 anni. E diciamo che gli effetti in quelle regioni si sono visti e si continuano a vedere e li continueremo a vedere nei prossimi anni. Per quello che riguarda invece l'incidenza del tumore, perché quello che poi appunto è stato registrato in maniera importante in queste regioni, invece negli altri paesi europei e dunque anche in Italia, diciamo che la concentrazione di questo radionuclide, dello iodio 131, è rimasta entro la concentrazione ammessa in caso di incidente per un lavoratore esposto, vuol dire assolutamente entro i limiti di sicurezza. Questo vuol dire che non c'è alcuna evidenza dal punto di vista epidemiologico che possa associare nel nostro paese, in Francia o in altri paesi europei, un aumento dell'incidenza. Però è anche vero che, ma non solo in Europa, anche negli Stati Uniti, si è descritto negli ultimi decenni, nell'ultimo ventennio, un progressivo aumento dell'incidenza dei tumori tiroidei. Dunque, se non è l'effetto Chernobyl che ha riguardato solo quelle regioni, ci si chiede quale sia effettivamente la causa principale. E allora sicuramente l'effetto dello screening, no? Oggi ci si controlla di più, si fanno più ecografie, più agospirati, ma agospirati anche in presenza di noduli ormai di piccole dimensioni, quindi una diagnosi precoce. Ma è possibile che ci siano dei fattori genetici e anche ambientali che ancora non conosciamo. Abbiamo in linea con noi Cinzia, ci chiama da Milano. Cinzia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Continuiamo a parlare di tiroide. Amici e nemici, qual è la sua domanda? La mia domanda è questa: io faccio l'assistente di volo. Siccome diverse mie amiche soffrono di ipertiroidismo, volevo, e noi assorbiamo una quantità di radiazioni ionizzanti fino a una soglia che ci dicono di sicurezza di 6 millisievert all'anno, mi chiedevo, è davvero una soglia sicura o in realtà devo stare attenta già a soglie più basse? Grazie Cinzia, la sua domanda cade a fagiolo. Dottoressa Pellegriti, c'è una risposta per Cinzia? No, non dovrebbe essere, diciamo, non sono delle soglie, cioè, specie appunto il personale che viene diciamo controllato, monitorato strettamente, come altri lavoratori esposti, diciamo, rimangono entro le soglie. Il problema appunto è capire se poi in determinate situazioni ci sia qualcosa in più oltre quello che conosciamo. Professor Pontecorvi, stiamo parlando di radiazioni ionizzanti, ma, e diamo così risposta ai nostri ascoltatori, le onde elettromagnetiche, quindi penso ad esempio cellulare, alle onde di ponte radio, tanto per stare nelle onde, possono in qualche modo, c'è qualche studio che ha provato un'interferenza sulla, tra l'esposizione e il manifestarsi di alcune malattie della tiroide? Stiamo tranquilli? È una domanda che spesso i pazienti ci rivolgono. Non c'è nulla di dimostrato. Non c'è nulla di dimostrato che le radiazioni elettromagnetiche sono ben diverse dalle radiazioni ionizzanti di cui parlava la dottoressa Pellegriti abbiano un effetto sulla tiroide. Non ci sono studi seri che lo dimostri. Sì, però ci sono degli studi? Qualcosa è stato fatto, soprattutto in vitro, su cellule in vitro, ma sono situazioni completamente diverse da quelle a cui ci esponiamo in vivo. Dottoressa Pellegriti, da Chernobyl passiamo alla radioterapia. È un trattamento terapeutico, ma che espone comunque la tiroide delle radiazioni ionizzanti, quindi presenta comunque dei rischi che sono ben conosciuti, ma che richiedono una valutazione attenta. Sì, questo sì, se il rischio di una radiazione, in questo caso esterna, una radiazione ionizzante, negli adulti è basso, addirittura trascurabile, i soggetti in età pediatrica, adolescenziale, che purtroppo devono essere sottoposti a radioterapia nel collo, faccio l'esempio, i bambini che vengono trattati per neoplasie ematologiche in età pediatrica, ecco, questi poi sono soggetti a malattie della tiroide in generale, quindi potrebbero sviluppare l'ipotiroidismo, potrebbero avere la presenza di noduli, due terzi dei quali sono generalmente comunque benigni, ma un terzo possono essere poi dei noduli appunto maligni. E la latenza può essere anche molto lunga, anche fino a 40 anni addirittura dall'esposizione. Questo quindi vuol dire che un bambino, un adolescente che si sottopone a questa terapia deve essere controllato per sempre, per tutta la deve vita. Deve essere informato, noi informiamo i genitori quando vediamo questi piccoli pazienti, che lo screening dura tutta la vita, perché il rischio si può avere veramente anche dopo tantissimo tempo di latenza. Dottoressa Pellegriti, abbiamo parlato quindi di radiazioni ionizzanti, da Chernobyl siamo passati alla radioterapia, ma quindi ci sono delle ricerche in corso, ma recentemente anche il potenziale ruolo di altri fattori ambientali in corso di osservazione. In Sicilia, ad esempio, nella zona vulcanica, quella per intenderci intorno a Catania, si registra un'incidenza di tumori tiroidei elevata, 2-3 volte superiore rispetto a quella osservata nelle altre province siciliane. Dunque l'area vulcanica proprio per sé potrebbe essere correlata a qualche cosa di... Dottoressa, voi state facendo delle indagini, delle ricerche, degli studi, proprio in un minuto, noi siamo praticamente in chiusura. Velocissimamente, sì, ci siamo chiesti, proprio per l'elevato numero di osservazioni di pazienti con questa patologia, se in qualche modo l'area vulcanica potesse essere correlata, e effettivamente è già stato descritto in letteratura che vi era un'elevata incidenza dei carcinomi tiroidei nelle isole vulcaniche, e noi troviamo questo dato che lei diceva di un'incidenza di 2-3 volte superiore, in particolare nelle donne ma anche negli uomini, cosa che non osserviamo invece dalla raccolta dei dati nelle altre 8 province siciliane, e quindi sembra esserci un effetto di un qualcosa che a livello ambientale, quindi attraverso poi il vulcano, quindi si diffonde e colpisca quindi alcuni, un numero così elevato di persone nella nostra provincia. E quindi state cercando un po' i colpevoli? Sì, ecco, i colpevoli, allora stiamo cercando pensando sicuramente nelle acque, no? Abbiamo pensato a quello che è il mezzo di diffusione di un'eventuale sostanza che può essere un carcinogeno, quindi stiamo misurando alcune sostanze, alcuni metalli, non so, il ferro, il manganese, il boro, il banale, oppure anche il radon. Il radon per esempio è un gas radioattivo che deriva dall'uranio, che è ubiquitario sulla Terra, no? Nelle zone rocciose e montagnose, e quindi proviene dal sottosuolo. È noto che da noi i livelli di radon sono elevati anche prima delle eruzioni, e ci sono, da dati preliminari, anche elevate concentrazioni nelle acque di alcuni elementi. Resta poi da dimostrare il rapporto causa-effetto. Noi, professoressa, aspettiamo, dottoressa Pellegriti, aspettiamo i risultati. Senz'altro. Intanto la ringrazio. Grazie e buon lavoro. Professor Pontecorvi, ringraziamo anche a lei che ci ha accompagnato egregiamente, come sempre, alla scoperta degli amici, dei nemici e dei non amici della nostra tiroide. Io vi rimando naturalmente, vi invito a scrivere a esserebenessere@radio24.it per qualunque vostro dubbio, bisogno di consulta, eccetera. Buona giornata, ci sentiamo domani, come sempre vi aspetto dopo il GR delle 11.